E mi torna sulla track, sai come funziona. Nessuno ha da dire ah, lo sa che esistona. In questa storia sono il crack che incavalco l'onda. Ogni vittoria sull'età che delle mie Jordan. Vengo dall'88 bro come le miglia all'ora. La vera scuola no, non l'ho mai fatto per la gloria. Farei lo stesso pure se perdessi la memoria. Farei lo stesso pure se c'avessi la DeLorean. Ma sono il meglio, sono Apple, il top del top. Così la mia merda vende un botto anche se costa il doppio. Non mi raggiungo, non li doppio, motore a scoppio. Ferri di lotto, l'occhio tocchio. Se fumo troppo no, non mi fotte dei partiti. Sono un paese di falliti. Mamma faceva due lavori. Non faccio cacchiere, faccio money. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Sì, frate, me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Sì, frate, me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Sì, frate, me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Se già ritorna sopra il beat, voi restate zitti. Flow è nero come Whitney, still tipping. Baby hit me, one more time come Britney. Faccio rolling sopra i dischi, si Limp Bizkit. Avanti come gli egizi. Canto canne dentro i jeansi. Ancora schiavo dei vizi, giro con tizi che mangiano fra solo pesce crudo come i grizzly. Vengo dal futuro come Cannonball, yeah. Spalmo il miele sul Cannonball, wow. Stavo tre biglietti, prendo il codice in relax, come well. Zero LAX, Charles de Gaulle, oh Sean Effay, I'm a bell. Michael Douglas, killer col collo alto Prada. Bello come una cambogiana su una Lambo gialla. Come le perle della sua collana, fra si fermano a guardarla come il morto in autostrada. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Sì, frate, me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Sì, frate, me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Usciti dal correzionale senza correzione. Usa sempre il condizionale quando parli con me. Già ce l'ha addosso prima della nuova collezione. La colazione inclusa baby e eiaculazione. Se scorro la cronologia non hai più le tette. Non hai più il culo. Prendi sto rapper, non abitate, non fa più il duro. Dio tieni distante le persone false. Che mi porto a casa come la merda sotto le scarpe. Nella Vuitton tengo 20 capo in contanti, 13 pietre come il figlio di Moran. Sai che legge per sempre come sti diamanti. Scrivo romanzi criminali come Dante. Resto G, resto guilty. Ho visto la tua tipa dal vivo e le mancano frate fin troppi filtri. Un milione di case mi godo la vista. Picchio su sto pulsi fra percussionista. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Sì frate, me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Sì frate, me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori. Me ne andrò fuori, manderò i fiori.